Componimento 153esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Ite, caldi sospiri, al freddo core, rompete il ghiaccio che pietà contende. E se prego mortale al ciel s'intende, morte o mercè sia fine al mio dolore. Ite, dolci penser, parlando fore di quello ove il bel guardo non s'estende, se pur sua asprezza o mia stella n'offende, sarem fuor di speranza e fuor d'errore. Dir se può ben per voi, non forse a pieno, che il nostro stato è inquieto e fosco, sì come il suo pacifico e sereno. Gite sicuri omai, ch'amor ven vosco, e ria fortuna può ben venir meno, s'a i segni del mio sol l'aere conosco. Fine del componimento.